La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Siamo tornati alle 18, siamo tornati lunghi un'ora, siamo tornati al grande cinema qui su Radio 24, La rosa purpurea nella sua nuova vecchia collocazione, appunto, della tardo pomeriggio, chiamatelo prima serata, vedete voi, del sabato, ma insomma dalle 18 alle 19 un'ora insieme per parlare sempre più di cinema e approfondirlo sempre di più in una puntata che è speciale non solo perché trova la nuova collocazione qui nel nuovo palinsesto di Radio 24, ma perché abbiamo ospiti davvero straordinari che staranno con noi da qui alla fine della trasmissione. Uno su tutti, Ted Neary, il Jesus Christ superstar del mitico film di oltre 40 anni fa che abbiamo intervistato in esclusiva per la rosa. Ma insomma andiamo con ordine perché tempo ce n'è tanto, ma non vogliamo perderlo, e cominciamo subito a parlare di quelli che saranno i film di questa puntata. Tante le uscite in sala, una decina. Sicuramente quella che ci mette qualche brivido in più, al di là del film, per la presenza, per una delle ultime presenze ai noi, di un attore come Philip Seymour Hoffman, è La spia, Most Wanted Man. Quello era anche il titolo originale del libro di John le Carré da cui questo film è tratto. Una storia assolutamente di spionaggio, come dice il titolo, ambientata in quel di Amburgo. Siamo all'indomani degli attentati dell'11 settembre. Questo è un fatto storico. 3 degli attentatori dell'11 settembre erano di base proprio ad Amburgo. E in quella città qualcosa ha fallito. E da lì prende le mosse il romanzo di Le Carré e anche il film, dove ci sono coinvolti un misterioso uomo in fuga, un banchiere britannico, una giovane avvocatessa idealista e il capo di un'unità segreta di spionaggio tedesca. La nostra unità ha il compito di sviluppare una rete di intelligence all'interno della comunità islamica in Germania. È per questo che siamo qui. Oh, io pensavo fosse per il casino combinato a Beirut. È perché il tuo amico Michael Axelrod non sappiamo aveva idea... Che cosa vuole Karpov da questo banchiere? Non ancora, e se ci muoviamo contro di lui potremmo non saperlo mai. Credo che abbia ragione, Otto. Credo che dovresti lasciarlo fare. Issa Karpov, il Karpov di cui si parla nella clip, è un personaggio, un giovane di origini russo-cecene che arriva al porto di Amburgo con una intenzione chiara: recuperare il denaro che il padre, che era un criminale di guerra, ha accumulato negli anni precedenti, e chissà come usarlo. È proprio qui che si inserisce l'azione dei servizi segreti guidati da Gunther Bachmann, appunto Philip Seymour Hoffman, che vogliono fare in modo intanto di scoprire cosa c'è oltre Issa Karpov, dove potrebbero andare quei soldi, e per farlo mettono gli occhi su un personaggio di quelli che si definiscono al di sopra di ogni sospetto. Grazie a delle organizzazioni benefiche il dottor Abdullah trasferisce il denaro e lo fa sparire. Usa una compagnia di spedizioni. Ha molti amici qui a Berlino. Guardati le spalle. Abdullah non è un integralista, sembra un bravo uomo, ma in ogni persona c'è un poco di malvagità, e nel suo caso quel poco può uccidere. Abbiamo 3 ore per prendere Abdullah e farlo parlare. Chi è? Non muoviti! Polizia! Dirige Anton Corbin. Nel cast, oltre a Philip Seymour Hoffman, ci sono Robin Wright, Rachel McAdams, Willem Dafoe, Daniel Brühl, insomma un cast internazionale di tutto rispetto. In collegamento con noi, niente meno che da Abu Dhabi, l'abbiamo ambientato insomma così in Estremo Oriente, anzi in Medio Oriente in questo caso, c'è Boris Sollazzo. Ciao Boris. Buongiorno a tutti. Boris, parliamo di questo film, perché c'è una metafora che ha fatto un collega all'uscita dalla proiezione stampa milanese che mi è rimasta dentro, che non vuole essere, per quanto mi riguarda, almeno una stroncatura del film, ma ha detto è un film senza neanche un tiro in porta come l'attacco del Milan. Però questo chiaramente lui l'ha detto perché è un milanista un po' deluso dalle ultime prestazioni della squadra di Inzaghi, però la metafora calcistica ci può stare, anche se bisogna stare attenti che in questo caso non è un film che fa melina, è un film molto introverso, molto contenuto, molto trattenuto in certi sensi, e anche molto classico di spionaggio. Allora, volendo fare una metafora calcistica, intanto facciamo i complimenti per il gol ad Alicia Rohrwacher, che ha vinto anche qui ad Abu Dhabi il festival nella sezione Nuovi Orizzonti. C'era anche Alba, ma lei non ha vinto niente con Angry Earth. Poi, per quanto riguarda La spia, Devo dire che non hai torto tu e non ha torto neanche l'amico rossonero, nel senso che volutamente è un tiki-taka, ecco, non una melina in cui si dimenticano di tirare in porta, ma forse non si dimenticano, lo decidono deliberatamente, nel senso che mettono tutto sul tavolo, come spesso accade con le carré, e lasciano andare il meccanismo molto più della storia, perché il meccanismo che è la cosa più interessante. In fondo anche il libro di Le Carré aveva questa struttura, si sapeva già tutto quello che doveva succedere, si sapeva tutto quello che voleva succedere, la cosa interessante erano gli incastri. Non a caso quello di Corbin sembra la versione elegante, introspettiva, intimista di quello che era la talpa di Alfredson. Allo stesso modo di arzigogolarsi su se stesso senza mai però essere del tutto complesso. Certo, se ti distrai non hai nessuna speranza di riprendere il film, in quel caso ancora di più, qua forse un po' meno. La cosa più interessante è che forse come nel Tiki-Taka del Barcellona ci ritroviamo con un cast incredibile, pazzesco, che si diverte più a giocarsela tra di loro che in effetti ad approdare un risultato. In questo cast c'è il Messi della situazione, Philip Seymour Hoffman, che è quasi spaventoso nella sua ultima scena, perché se la si lega ovviamente a quello che poi è successo, cioè la sua morte prematura, davvero si pensa che a volte la magia del cinema ha qualcosa di perverso. Il film secondo me è validissimo, Corbin è un regista che tra l'altro cura la fotografia in maniera meravigliosa e gli attori danno una grande prova, in particolare Seymour Hoffman, che sembra anche meno come dire, tendente alla gigioneria che in altre situazioni. Rimane il fatto che effettivamente forse un tiro in porta alla fine lo potevano fare. E allora, aspettando il tiro in porta di Philip Seymour Hoffman, andate a vedere questo La Spia, che comunque insomma, è una di quelle belle spy story classiche. Ultima interpretazione, si è detto, in ordine proprio cronologico di Philip Seymour Hoffman. Al cinema deve ancora arrivare anche il nuovo capitolo di Hunger Games, ma insomma sicuramente l'ultima dove c'è, come dire, il personaggio e c'è anche lo spessore recitativo che gli è proprio. Allora noi abbiamo voluto mettere insieme in questo collage tre momenti fondamentali della carriera. Vediamo se li indovinate. Oh, mi dispiace tanto tanto, Quentin, ma che vuoi? Era per darti un'occasione. Hai una tale voce da radio. Vaffanculo. It's good to laugh during processing. Sometimes we forget. Even if it is the sound of an animal. Ehi, l'ho detto, Jimmy, il tuo romanzo parla di un negro omosessuale che si innamora di un ebreo. Se non lo trovi problematico. Si trattava di Truman Capote, l'avete sentito quest'ultima clip, I Love Radio Rock e The Master, tre dei film che hanno consegnato alla storia Philip Seymour Hoffman. La rosa purpurea. Dottore! Dottore! Dottore! Dottore! Vabbè, comunque andiamo a strigna, che ce dovete dire? Per motivi di salute, momentaneamente non potrà più seguirvi nel vostro percorso di cura. Una settimana? Un mese! Per sempre. Nel giro di 3 mesi sarò completamente cieco. Ci stanno un sacco di ciecati che hanno fatto delle cose fantastiche. Omero, per esempio. Bravo, perché Stevie Wonder che t'ha fatto? E siamo tornati insieme con questa clip dal film Confusi e Felici, il prossimo film di cui vogliamo parlare fra le novità di questo fine settimana. È con noi al telefono Massimiliano Bruno, il regista. Ciao Max. E là, ben trovato, ciao Franco, come state? Tutto bene, tutto bene. Tu sei di qua e di là per l'Italia in questi giorni a promuovere l'uscita di questo film in 450 sale, un'uscita massiccia, diciamo, per questa commedia. Max, abbiamo sentito la clip che ci dà un po' il centro, il cuore del tuo film, la chiave di volta di un uomo, uno psicologo anche un po', come dire, ormai svogliato, un po' pigro come Claudio Bisio, che a un certo punto però forse riprende un po' a vivere nel momento in cui se ne sta andando uno dei sensi principali, ovvero la vista. Sì, è la storia proprio di quest'uomo che sta in crisi e che nel paradosso di questa storia chiaramente che trova i suoi pazienti che gli danno aiuto per cercare di uscire da questo problema, con la profondità tipica della commedia all'italiana, in un film dove comunque chiaramente c'è un obiettivo principale, che è quello di far divertire, di far sorridere, di drammatizzare un problema grandissimo come la perdita della vista. Ecco, diciamo che il cast è come sempre una bella squadra, il tuo cinema è fatto di un gioco di squadra molto forte, in tutti i tuoi film da regista è stato sempre così. Qui abbiamo, oltre a Claudio Bisio, Anna Foglietta, Massimiliano Bruno, cioè te che fai anche l'attore, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, insomma è un cast davvero di primo piano, ma c'è anche il mitico Marco Giallini. Sentiamolo in questa clip perché ci dà subito lo spessore del personaggio. Sentiamo. Senso di soffocamento, ansia, che mi pare di morì. Ma io lo so qual è il motivo di questo maledetto lavoro, pieno di sacrifici, scadenze, responsabilità. Che lavoro fa, scusi? Spaccio. Ma tutta roba buona, oh, hashish, marijuana, roba di classe, mica monnezza. E allora Marco Giallini, che appunto fa un lavoro di grande responsabilità. Ancora una volta, ecco, dicevo lavorare di squadra, Max. Per te Marco Giallini è la tua squadra. Beh sì, insomma, un amico qui, ci conosciamo da 20 anni. Lui aveva già interpretato 2 miei film che erano Tutti contro tutti e Buongiorno papà. E quindi niente, l'ho voluto fortemente, un ruolo che secondo me poteva fare solo lui ed è sicuramente il ruolo più divertente di tutto il film, è il romanaccio classico, insomma, spacciatore che fa molto ridere, che fa da contraltare a un Bisio molto milanese. Senti, Max, in questo film mi sembra che ci sia un occhio anche a quella sorta di incanto senza tempo, no? È un film che non cerca particolarmente una chiave di lettura, come ha sempre fatto peraltro la commedia italiana, dentro la nostra società, sotto il profilo storico, temporale, del momento che viviamo, ma quasi più invece la ricerca dei caratteri, dei personaggi che popolano il nostro universo dell'immaginario quotidiano. Sì, beh, sicuramente una ricerca di uno stereotipo che non sia stereotipo, cioè la ricerca di raccontare qualcosa di nuovo attraverso dei cliché, però c'è sicuramente un approfondimento importante sulla psicanalisi che sta fallendo in questo momento e quindi insomma, è un modo per raccontare in maniera diversa delle tipologie di persone che però sono quelle che incontriamo tutti i giorni. Cerchiamo di sulle labbra, quindi inevitabilmente ci piace andare a fare le cosiddette battutacce che poi ci servono per sopportare, tra virgolette, i momenti di approfondimento del film. Ecco Max, dicevi, questo è interessante, la psicanalisi che sta fallendo. Raccontaci un po' di più perché ti è piaciuto e ti è interessato questo argomento, questo tema. Beh, perché sono anni che le frequento, so quanto è fallimentare l'analisi freudiana, so che invece esiste un modo diverso di fare terapia e quindi esistono bravi dottori che ti curano e tanti cialtroni che ti assistono, che ti mettono una mano sulla spalla. Siccome costa molto andare in terapia, è importante che ti faccia sapere a tutti che bisogna saper scegliere dei dottori bravi, altrimenti andare in palestra. Allora ascolta, anche la musica ha la sua importanza in questo film come sempre, però qui hai preso dei giganti, insomma, da Daniele Silvestri a Max Gazzè, Niccolò Fabi sono nomi della qualità della musica leggera italiana. Beh, sono grandi amici, ci siamo divertiti tantissimo e per il resto la colonna sonora è affidata a Maurizio Filardo, che è da sempre collaboratore principale di Daniele Silvestri. E quindi siamo un po' in famiglia con Daniele, ci conosciamo dai primi anni 90, da quando eravamo poco più che 20 anni e frequentavamo quel locale di Vicolo del Fico e insomma è stata una bella reunion tutti insieme per cercare di divertirci, quella che credo che sia una delle scene più riuscite del film. Ecco, per chiudere Max voglio far sentire un'altra clip perché questo ciaone sta diventando davvero un tormentone. No, invece lui niente. Cioè, almeno una volta un po' di sesso si faceva, adesso sta sempre qualcosa in mano. Ma che c'entra? Qualcosa in mano? No, che ha capito, no, mica quello. No, quello ha visto lei, sono 2 anni che ci ha lasciato, ci ha fatto proprio ciaone. Ciaone. Ciaone proprio. Ma come ti è venuto in mente, Max, sta cosa del ciaone? No, è un'improvvisazione di Caterina Guzzanti. Che ha fatto sul set, mentre stavamo sul set, ha improvvisato questo ciaone che è un tormentone che già stava in rete e che adesso vedo che sta andando molto per la maggiore. Assolutamente, ormai l'ho sentito anche in redazione, ma da gente assolutamente al di sopra di ogni sospetto, dirti ciaone, e allora ho detto vuol dire che qualcosa sta succedendo. E allora... Ti ringrazio tantissimo per questo spazio, sono felicissimo di aver partecipato. Noi siamo sempre qui per gli amici della commedia che ci fanno sorridere, ci fanno anche un po' pensare, magari senza soverchiare la risata, però sotto sotto ci fanno andare con la mente e col cervello a qualcosa che ci rimane. Grazie Max, anzi ti direi ciaone Max e ci sentiamo la prossima volta. Un bacione, grazie, ciao Franco, ciao a tutti, ciao. E allora parliamo, dopo aver affrontato la commedia italiana, di un film corale, ancora una volta nella sua struttura recitativa, con una firma importante, quella di Laurent Canté. Il film si intitola Ritorno all'Havana, questo è il titolo italiano, ed è la storia di cinque amici intorno ai 50 anni che si ritrovano appunto nella città cubana, e in questo incontro, che è uno dei tanti incontri del cinema dopo tanti anni senza vedersi, si beve, si parla, si ride, si fa tutto sommato un bilancio della propria vita. Sentiamo. Vi ricordate quando andammo al parco Lenin a sentire Serrà? Oh, e come, mi fanno ancora male i piedi. Quel giorno credevo che Xiomara ti ammazzasse. Sì, che avevo fatto? Come, perché tu? Perché eri a pezzi, per no. Colpa della tua sbronza, perdemmo tutti gli autobus, dovemmo tornare a piedi fino a Mantiglia e mi fanno ancora male le unghie. Non fai che inventarti storie. No, è vero, Rafa, alla povera Angela vennero delle vesciche che sembrava una lebbrosa. Ero andato a sentire Serrà per colpa vostra, eravate esaltati, a me non è mai piaciuto. Ma dai! Che faccia tosta. Cosa? Ma se a tutti piaceva Serrà. Laurent Canté è un regista piuttosto mutevole, ha affrontato spesso i temi della società, del lavoro, della scuola, con la sua Palma d'Oro, La Classe, lo ricorderete a Cannes nell'anno di Gomorra e del Divo. Adesso una nuova attrazione per il sud del mondo, che sono stati sempre un po' anche un suo punto di interesse. Com'è andata, Boris, questa gita cubana di Laurent Canté e compagnia? Beh, molto molto bene. Lui aveva fatto già 7 giorni all'Havana, dove aveva fatto uno degli episodi, e credo che lì si sia innamorato del posto. Molto bene, perché Laurent Canté, se lo metti in pochi metri quadrati, di solito dà il meglio. Era successo con La Classe e succede adesso con Ritorno all'Havana, dove il 95% del film si svolge su un terrazzo in cui quattro amici, raggiunti poi da un altro che fino a quel momento lavorava, si ritrovano e ci mettono a parte della loro vita attraverso confidenze incrociate tra di loro. Una normale serata di amicizia, di affetto, anche di recriminazioni, diventa però di fatto lo specchio di Cuba. Non la Cuba ideologica degli anticastristi, non la Cuba ideologica dei comunisti che hanno sempre visto la poesia della rivoluzione in quel paese, ma la Cuba come effettivamente è stata. Quella Cuba che, come la Jugoslavia in Europa, era forse sì una dittatura all'acqua di rose, che non ha fatto né migliaia né milioni di morti, ma probabilmente solo centinaia, se si può dire solo, chiaramente, è una Cuba che però forse non ha ammazzato molti corpi, ma ha ammazzato molte anime, ha ammazzato molti sogni. E di questi quattro, che diventano cinque personaggi, tutti artisti, tutti che avevano grandi sogni, che poi sono diventati vite normali, vite in cui questi sogni sono stati chiusi dentro un baule, troviamo in questa serata, in questo film, la realizzazione, almeno il racconto di essi. Ed è struggente, Canté è bravissimo a scegliere degli attori straordinari, molto, molto famosi a Cuba, degli attori che creano un'empatia immediata con lo spettatore e che ci fanno capire quanto può essere duro vivere in un'assenza di libertà che non viene mai rivelata. E così c'è l'idealista che ancora crede nella rivoluzione e probabilmente proprio in quella sera capisce quanto è stata violenta con i suoi amici, c'è il pittore che non riesce più a dipingere, lo scrittore che è tornato dopo 15 anni senza aver visto la moglie morire per cercare di tornare a teatro, tante illusioni che o sono sopravvissute o sono morte, diciamo, e loro sono i superstiti delle loro stesse illusioni e dei loro stessi sogni. Veramente un film poetico, forte, in cui Canté da una parte si nasconde perché decide di far parlare gli attori e gioca di campo e controcampo e poco altro, e dall'altra però è presentissimo perché racconta attraverso una pièce, tra l'altro molto famosa a Cuba, quello che è successo negli ultimi 40 anni fuori dalle ideologie di chi l'ha raccontato da fuori. E allora, ritorno alla Havana di Laurent Cantet, un altro dei film, delle novità al cinema di questo fine settimana. Noi prima di dare la linea alla regia dobbiamo giocare, perché chiaramente dobbiamo far vincere pure a qualcuno dei nostri ascoltatori i film più belli della stagione in alta definizione, in Blu-ray. E allora ascoltate questa clip. Devo dire che sono stata alquanto ferita dal non ricevere un invito. Non siete la benvenuta. Tony Fiabeschi in questa clip. Allora, di che film si tratta? Titolo, vostro indirizzo, nome, cognome, indirizzo di posta privata, insomma, dove ricevere eventualmente, siate fra i due più veloci, il film in questione più tardi. La rosa purpurea. Beh, le note sono inconfondibili, sono una sorta di brand, di marchio che è rimasto nella storia del cinema e del musical. Stiamo parlando ovviamente di Jesus Christ Superstar, il musical diventato poi film e poi come musical ha girato per il mondo, inventato da quei geni di Sir Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Fine anni 60 il musical esordisce a Broadway, diventa una roba dirompente. Nel 73 diventa un film altrettanto dirompente, che dà la popolarità planetaria a questa storia, a questa opera rock sulla figura di Gesù vista con gli occhi di Giuda, in salsa rock appunto, totalmente musicale. E poi il musical che è andato avanti in tante edizioni, il Jesus Christ di quel film, il volto di Gesù, che è stato per anni proprio quello che iconograficamente nel cinema si è legato a livello mondiale al volto di Gesù, era Ted Neely, texano di un paesino di 2000 abitanti, batterista rock di un gruppo che si chiamavano Teddy Five, prima di diventare poi, anche per un po' di fortuna, perché era la riserva del ruolo di Gesù, così come Carl Anderson era la riserva del ruolo di Giuda, ma furono loro due a essere i protagonisti del film. Ebbene, Ted Neely è ancora oggi sul palco a impersonare, a incarnare il volto, il corpo di Gesù per questo musical, che da qualche settimana, dopo essere stato a Roma, Verona, in tante città italiane, e a Milano al Teatro degli Arcimboldi fino a domenica 2 novembre, sta riscuotendo un successo clamoroso, con standing ovation ogni spettacolo, e li ho viste con i miei occhi davvero, pubblico di tutte le età, adulti, cinquantenni, sessantenni, ma anche tanti adolescenti, tanti diciottenni, ventenni, davvero un pubblico variegato. Ted Neely è lì sul palco a 71 anni, ancora con la voce di allora, davvero straordinaria. Noi l'abbiamo raggiunto nei camerini del Teatro degli Arcimboldi di Milano, l'abbiamo intervistato e ci ha raccontato molto di quella esperienza, di quella set in Israele per girare Jesus Christ Superstar, il film di Norman Jewison. Sentiamo l'intervista. But if I die, see this saga through and do the things you ask of me. Con Ted Neely per parlare di questo Jesus Christ Superstar con un grandissimo successo. Allora, al di là del piacere di essere qui con uno dei più grandi interpreti della storia del musical, essere ancora Jesus Christ Superstar 40 anni dopo, come fa a rinnovare la passione che si vede che trasmette al pubblico dal palco? It renews me. È lui che rinnova me, davvero. Ogni volta è come la prima volta. Non mi sono mai stancato di questo ruolo. L'ho già fatto più di 5.000 volte e stanotte sarà come la prima volta di nuovo. Quando siamo nel backstage, aspettando di entrare sul palco, sentiamo dalle quinte i rumori del pubblico mentre entra in sala. E quando si spengono le luci, all'improvviso il rumore finisce e piomba il silenzio. La prima cosa che sentiamo è... After all this time, it's new and fresh. E ogni volta succede qualcosa di nuovo ed inaspettato. E la reazione imprevedibile del pubblico ci trasmette sempre una magnifica energia, che a nostra volta gli restituiamo sul palco. We just give it back. Potremmo dire allora che è un miracolo di Jesus Christ, la vera superstar di questo spettacolo. It is for me. Absolutely. Completely changed my life. Per me lo è certamente. E mi ha cambiato la vita completamente, non solo da un punto di vista spirituale, grazie al personaggio che ho interpretato, ma anche perché mentre eravamo in Israele a girare le scene del film, ho incontrato una bellissima donna che poi è diventata mia moglie. Lei faceva la ballerina nel film, era arrivata in Israele dal Canada. Ci siamo incontrati durante le riprese e abbiamo passato insieme tutti i giorni del set. Insomma, tutto ciò che è successo durante questo film per me è stato bellissimo e mi ha influenzato in modo positivo. Abbiamo anche avuto due fantastici bambini che adesso sono cresciuti. Mi sento molto fortunato e lusingato per essere stato scelto da Norman Jewson come attore di questo film. Gli sono veramente grato. I couldn't be more thankful. Jesus! You've started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. Cos'è significato girare quel film in quegli anni, in quell'inizio anni 70, in quell'Israele? Era un momento molto duro, non che adesso non lo sia, però che clima si respirava su quel set? Sì, effettivamente non era passato molto tempo dalla guerra dei sei giorni. In teoria il conflitto era terminato, ma in realtà non lo era ancora. Avevano dichiarato la pace, ma stavano ancora sparando ai confini. La frase che sentimmo più spesso sul set era: mettetevi al coperto, stanno arrivando gli aerei, stanno arrivando i carri armati, perché stavano ancora sparando ai confini. Questo è il motivo per cui sul film si vedono carri armati e aerei. E Jewson decise di riprenderli per sottolineare la pressione cui Jude era sottoposto mentre decideva di fare ciò che poi ha fatto. Siamo stati molto nella zona del castello di Erode o sul Mar Morto. Tutto quello che si vede nel film era davvero lì, con pochissime eccezioni, come l'uliveto dove si svolge l'ultima cena. Era pieno di pietre sporcizie. Così la troupe ha dovuto piantare dell'erba, in modo che noi ci potessimo sedere. Essere circondati da quell'atmosfera è stato magnifico. Ha aggiunto un grande valore all'atmosfera del film. Il film e il musical parlavano a un mondo che aveva ancora la speranza di essere cambiato, voleva cambiare. Oggi forse si parla a un mondo, soprattutto a una generazione di giovani, che ha forse un po' perso la speranza di cambiarlo il mondo. Come può questo stesso messaggio essere universale, cioè valere allora e valere oggi? Sono completamente d'accordo con te riguardo a ciò che hai detto a proposito della situazione attuale della nostra società. Se comparo gli anni 70 all'epoca in cui viviamo ora, è come se avessimo chiuso un cerchio. Ora siamo praticamente allo stesso punto in cui eravamo negli anni 70. Questa generazione ha più mezzi per comunicare rispetto ad allora, ma comunica meno. È sempre dietro a digitare su uno smartphone o su un tablet. Non si riesce mai a fare delle conversazioni complete. A essere sincero, mi sembra che anche a me capiti di fare delle belle conversazioni solamente quando mi fanno le interviste, più di quando parlo con le persone nella mia vita quotidiana. Allora ringrazio Dio per i media, per le TV, per le radio, per i giornali che hanno ancora voglia di fare domande e avere risposte. Poi non so se io sono in grado di dare delle risposte sensate e interessanti, ma di sicuro hanno un significato per me. Sono profondamente convinto, basandomi sulla mia esperienza con Jesus Christ Superstar, che questo show trasmette un messaggio al mondo come nient'altro ha fatto. Lo hai potuto sentire anche tu l'altra sera quando hai visto lo spettacolo. Qualcosa è successo in te e in tua figlia. Due generazioni completamente diverse hanno provato le stesse sensazioni. Credo che Jesus Christ Superstar abbia il potere di tirar fuori tutto ciò. Possiamo avere una comunicazione che non possiamo avere da nessun'altra parte. Io credo che la musica sia il linguaggio del mondo. Non importa che lingua parlino le persone, tutti possono cantare queste canzoni. Eppure quando il musical arrivò la prima volta in teatro ci furono grandi proteste. Perché la società, anche allora, che era una società che si preparava a cambiare, aveva così paura di affrontare in questo modo la figura di Gesù? What I found And this was when we did the very first production. Ciò che ho notato quando abbiamo cominciato a mettere in scena le prime produzioni a Broadway, che vennero dopo l'album e prima del film, a New York in particolare, è che venivamo contestati ogni sera. Dovevamo aprirci un varco tra la folla per poter entrare in teatro. E io ogni volta chiedevo alla gente, ma avete visto almeno lo spettacolo? E ogni volta mi dicevano, no. Allora ho cominciato a dirgli, fatemi un favore, stasera sedetevi, sarete i miei ospiti, guardate lo spettacolo e aspettate fino alla fine, così che possiamo parlare insieme e discutere su cosa non vi è piaciuto dello show, così possiamo capire cosa non funziona. Le persone hanno cominciato ad assistere veramente allo spettacolo e gli è piaciuto moltissimo. Sono tornati più volte a vederlo e hanno anche portato degli amici. Insomma, alla fine le proteste che ci sono state agli inizi hanno reso lo spettacolo più popolare. And the number one answer when I would say, what is it most about this show since you've not seen it? La risposta che ricevevo più spesso quando chiedevo cosa non vi convinceva di questo spettacolo quando ancora non lo avevate visto. E loro mi rispondevano sempre, perché il titolo è Jesus Christ Superstar. Non riuscivano a connettere lo Spirito Santo con la celebrazione attraverso la musica. Ma poi, dopo aver visto lo spettacolo, lo amavano. E tutto questo è accaduto grazie alle canzoni e ai testi di Tim Rice, tratti dal Vangelo secondo Giovanni. Il pubblico ha potuto pregare e cantare divertendosi, non come succede in chiesa, dove spesso molti non riescono a vivere pienamente la loro spiritualità. In più, in Jesus Christ Superstar viene messo in rilievo la figura umana di Cristo durante i suoi ultimi 7 giorni sulla Terra. Un uomo che, come tutti noi, ha dei dubbi, si fa delle domande. Questo li faceva sentire bene. Made them feel good. Se non fosse stato per 40 anni Jesus Christ Superstar, che altro personaggio della storia avrebbe voluto avere dentro di sé, come è stato invece con Gesù? Van Gogh. Definitely Van Gogh. And we have a project. Oh, Van Gogh, sicuramente Van Gogh. Ora abbiamo un progetto in ballo su Rasputin. Sai, quando un attore fa la stessa parte per anni, quando gli viene proposto qualcosa di diverso, ha voglia di interpretare un ruolo completamente differente rispetto a quello di prima. E così abbiamo pensato, Rasputin potrebbe essere un personaggio completamente opposto, ma sicuramente far finta di dover essere Cristo è stata la parte più bella che mi abbiano mai offerto. Cosa poteva capitare di meglio a un batterista rock? Quindi, insomma, mi sono sentito veramente fortunato a far parte di questo spettacolo. Venire in Italia, vedere le reazioni del pubblico a questo spettacolo dopo 40 anni, beh, mi riempie di meraviglia. Unbelievably amazed to see what happens every night on stage with this show. Ted Neely alla Rosa Purpurea, il Jesus Christ Superstar del film, ma anche di questo straordinario musical, che tra l'altro vede nel cast anche altri 2 protagonisti. È un'occasione unica per chi è in Italia, ve lo dico proprio con tutto il cuore, di andarli a vedere, perché ci sono sul palco anche Yvonne Elliman, che era la Maddalena del film, e Barry Dannen, che era il Pilato del film. Quindi vi vedete praticamente mezzo cast sul palcoscenico. Lo vedete fino a domani, vi ricordo, solo il pomeriggio alle 4 al Teatro degli Arcimboldi a Milano. E poi dal 18 al 23 novembre a Torino, al Colosseo, dal 2 al 7 dicembre a Firenze, dal 16 al 21 dicembre a Genova, e poi a Capodanno a Bologna, e all'inizio dell'anno, 8-9 gennaio, a Parma. E poi chissà che magari questa tournée non vada ancora avanti. Giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Non avere paura. Ma io non ho paura. Allora mostrati. Tu avrai paura. E allora, la Rosa Purpurea, @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo. Provate a vincere, se sarete fra i più veloci di questa puntata, i 2 Blu-ray che sono a disposizione per chi indovinerà per primo. La Rosa Purpurea. Ed eccoci qua, quarta parte della Rosa Purpurea. Ancora un film in sala fra i tanti che escono questa settimana. L'abbiamo tirato dentro nella scaletta perché Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, abbiamo detto, ma insomma varrà la pena, ecco, poi dopo l'abbiamo visto. No, al di là degli scherzi, il film è Una folle passione di Susanne Bier, regista danese che aveva cominciato molto bene e poi si è un po' persa per strada. Ricorderete il suo film che aveva dato un po' la stura a un successo internazionale, un film girato nella sua Danimarca, si intitolavano I 2 sconosciuti, su una donna che incontra, diciamo così, e cerca di vedere nella figura di un amico quella di un uomo che ama, e poi da lì in poi si è, come dire, spalmata sul cinema di Susanne Bier tanta patina, sempre di più, l'Ovisol Unid, lo ricorderete, tutto sul Golfo di Sorrento, tutto pizza e mandolini, e adesso questo Una folle passione, se possibile, fa forse ancora un po' di peggio. Però il cast è importante, i due sono attori, Cooper e la Lawrence, forse, non dico il meglio, la Lawrence forse anche fra il meglio che c'è sul versante femminile. Bradley Cooper sicuramente è uno che tira molto al cinema. Boris, hanno fatto bene a scegliere questo copione? Hanno fatto bene a scegliere il titolo, giustamente stavano insieme in un lato positivo, erano tutti e due innamorati ed erano tutti e due pazzi, oltre che innamorati pazzi, e giustamente hanno cercato di portare un po' di gente al cinema parlando di Una folle passione. Poco altro hanno fatto bene, perché il film ha il difetto drammatico, secondo me, della freddezza, che è qualcosa che la Beer all'inizio della sua carriera non aveva, ma che superato l'oceano ha cominciato ad aver dentro, come se il fatto di essere danese gli abbia portato negli Stati Uniti questa tipo di caratteristica in più, per cui ne viene fuori un melodramma di scuola, una storia d'amore di scuola con questa deriva, diciamo, Bonnie e Clydesca, ma francamente se non ci fossero Jennifer Lawrence e Bradley Cooper, che secondo me sono il meglio che c'è in questo momento, o tra le cose migliori che ci sono, anche Bradley Cooper si vedeva che era bravo fin dai tempi di Alias, quando faceva l'amico sfigato di un'altra Jennifer Garner, però veramente oltre a loro, oltre alla sicura alchimia che c'è tra i due, una chimica incredibile e straordinaria, c'è davvero poco. La regia è scolastica, la sceneggiatura è elementare e tra l'altro molto schematica, francamente c'è poco da salvare di questa folle passione se non i folli appassionati. E questo è solo l'inizio. Ho comprato una proprietà in Brasile. In Brasile? Sì. Foreste incontaminate per centinaia di chilometri, Mogano. Grezzo e bellissimo. Ancora intatto. Non c'è niente di simile in America. Ed è quello che vuoi, vero? Più di ogni altra cosa. Ecco, vi abbiamo fatto sentire questa clip perché forse proprio dopo il racconto di Boris, questo atto di sesso col legno, devo dire, col Mogano, è abbastanza esplicativo dell'andamento di questo film. Grazie Boris, appuntamento la prossima settimana, salutaci Abu Dhabi, il festival, e Alice Rohrwacher che ha vinto un premio, siamo tutti molto contenti di questo. Grazie a te Franco, alla prossima settimana e buon cinema. E allora è arrivato il momento di parlare di cinema da vedere in casa, anche questa sezione aumenta i suoi spazi, torniamo a riuscire a darvi qualche segnalazione in più, ma come sempre cominciamo con il film con cui avevamo giocato 7 giorni fa. Senta, scusi, sa dov'è un sì. Bagno pubblico? Bagno pubblico, dunque, bagno pubblico, sì. E allora si trattava di Madonna che silenzio c'è stasera, un film che ha segnato un momento importante per la commedia italiana in quegli anni, negli anni in cui Francesco Nuti era davvero un numero uno di questo genere, capace di farci ridere molto, ma anche con quella vena di malinconia che lui sapeva dare alle sue interpretazioni. Allora lo hanno indovinato e lo vincono il Blu-ray di Madonna che silenzio c'è stasera Leandro Giorgini di Prato, giocava in casa potremmo dire, e Gianluca Givigliano di Cosenza. Per parlare di questa edizione in Blu-ray è con noi Giulio San Giorgio di Film TV. Giulio, una edizione, un film che torna in un video, cosa riesce ad aggiungere il Blu-ray? Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, il Blu-ray che esce per Cecchigori a un video è quello di un film, del film che ha lanciato la comicità stralunata, goffa e malinconica, come dicevi giustamente tu, e vernacolare di Francesco Nuti. È un film di Maurizio Ponzi, che è sempre stato un autore di un ottimo cinema medio e popolare della nostra produzione italiana. Nuti fu l'apripista, diciamo, di una stagione di comicità toscana che ha esaltato i botteghini del nostro cinema. La storia del film è quella buffa e picaresca di un giovane che cerca lavoro e deve rapportarsi al contempo con una figura materna decisamente imponente. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, essendo la versione restaurata, il video è ottimo, quasi totalmente privato motivo di imperfezioni, e se l'audio invece è piatto è solo perché, essendo una commedia del 1982, di certo non cercava di lavorare su un fine lavoro sul sound design, diciamo. Come extra ci sono interviste Leonardo Pieraccioni e Giovanni Veronesi, che sono appunto esponenti di quella scuola toscana di cui dicevamo prima, e un approfondimento sul film e la sua genesi. Allora, questo era il game della scorsa settimana, Madonna che silenzio c'è stasera. Un altro film che in un video possiamo recuperare, e ne vale la pena perché sono quei film un po' fra virgolette irregolari che escono un po' dal mainstream, dal piccolo mainstream all'italiana, è I corpi estranei. Sì, I corpi estranei, che esce sempre per Cecchigoria un video, è il secondo film di Mirko Locatelli, che è un cineasta milanese, ed è un film che sono molto contento di segnalare perché è qualcosa di decisamente eccentrico nella produzione cinematografica italiana. La storia è quella di un padre, di un uomo medio, decisamente medio, un grandissimo Filippo Timi, di suo figlio neonato che è malato di un tumore al cervello, e dell'incontro del padre con un giovane arabo in un ospedale milanese, giovane arabo che mette totalmente in crisi tutti i pregiudizi del padre. È un film che ha tantissimo da raccontare, come si capisce dalla storia, ma non lo racconta come se fosse un tema scolastico, con il classico svolgimento sul tema di tanta fiction italiana, ma lo racconta tramite i corpi, tramite gli spazi, tramite i silenzi, tramite le emozioni che riescono a uscire da queste componenti, ed è più vicino veramente al miglior cinema francese che alla bassa media di quello italiano. E allora, dopo aver visto cosa prendere in videoteca, andiamo a vedere cosa vedere in TV, perché ci sono anche le segnalazioni dai palinsesti della prossima settimana. Domenica 2 novembre, di notte, su Rai 3 alle 2.30, ma vale la pena o star svegli o puntare il videoregistratore, c'è un super classico come Je vous salue Marie. Sì, diciamo che abbiamo scelto due film che ci avvicinano a due prossime uscite. Il 20 novembre esce Adieu Langage di Jean-Luc Godard, e quindi proviamo a ritornare a un suo film del 1984, storia di Marie, vergine e figlia di un benzinaio che riceve l'annuncio della propria maternità da parte di Gabriel. Il fidanzato Joseph un po' si dispera, ma poi per amore si rassegna al figlio non suo. Ovviamente siamo di fronte alla parafrasi contemporanea di uno degli eventi fondanti della cristianità, e Godard, con spirito dissacratorio, dirige quest'opera che non è assolutamente blasfema, ma di grande spiritualità mistica e carnale, molto terrena, e con al solito una capacità visiva, una capacità di creare un poema visivo assolutamente altissimo. Ricordo l'appuntamento Je vous salue Marie su Rai 3 alle 2.30 di notte di domenica 2 novembre, mentre per chi ama la atmosfera un po' più forte, diciamo così, giovedì 6 novembre c'è Zodiac. Sì, anche qui con Zodiac ci riguardiamo un film di un autore che sta per uscire con quello che già è stato definito uno degli eventi cinematografici dell'anno, che è L'amore bugiardo. Siamo nel 1969, in Zodiac un serial killer inizia a colpire a San Francisco. Il maniaco invia una serie di lettere ai quotidiani, e appunto firmandosi Zodiac sfida gli investigatori attraverso messaggi cifrati. Siamo di fronte a un omaggio al cinema degli anni 70, quello d'Indagine, ma anche quello molto verboso di un Pacula, per dire. Siamo anche di fronte a una sorta di ribaltamento di Seven, l'altro grande film sul serial killer che ha girato David Fincher, e un ulteriore tassello di una filmografia che ha saputo raccontare il panico e la paura del contemporaneo. Tutto questo disegnato da un'indagine che alla fine non si riesce a concludere, e da prove attoriali gigantesche come quella di Gyllenhaal, c'è anche Robert Downey Jr., c'è Mark Ruffalo, è una sceneggiatura che è davvero da studiare nelle scuole di cinema. E allora ricordiamo l'appuntamento con Zodiac su Iris alle 20.55 di giovedì 6 novembre. Ci sentiamo la prossima settimana, Giulio. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Allora, grazie a Guido Scotti che ci ha dato una mano in redazione, a Gianmarco Ferronato che invece ha, come sempre con grande sapienza, suonato la console, e noi vi salutiamo. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo alle 18, La Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è. Ciao.